pushing too hard for pushing on me. You're pushing too hard on what you want me to be. You're pushing too hard about the things you say. You're pushing too hard every night and day. You're pushing too hard, pushing too hard on me. Aloha, buongiorno passerottini e passerottine care, bentrovati all'Early Bird Special. Questa è la primissima colazione servita tutte le mattine, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, molti mi conoscono perché sono quello del caffè nero bollente sempre davanti a me e per le chiacchiere sul mondo del rock and roll. Abbiamo della grande musica e abbiamo tante belle cose da raccontarvi, soprattutto dopo l'ascolto di Jefferson Starship, Count on Me. You Grace Leak con il Jefferson Starship. Grace Leak ne ha una formidabile sul suo burrascoso e psichedelico passato. Beh, dovete sapere che un giorno l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon invitò Grace Leak per una visita alla Casa Bianca. La cantante dei Jefferson Airplane e poi anche dei Jefferson Starship aveva però dei progetti più ambiziosi che visitare la residenza del presidente. In tasca aveva tanto di quel potente acido lisergico da far sballare un sacco di gente. Grace fu invitata a bere il tè col presidente. Certo, non sarebbe stato un affare semplice. Non è che il presidente si sarebbe seduto su un divanetto accanto a Grace e lei gli avrebbe detto: «Ehi, ma che bel quadro quello lì!» E lui, appena si fosse voltato, zac, una bella tavoletta d'acido nel tè. Era uno di quei tavoli lunghissimi, con il presidente da una parte e gli altri invitati a circa 2 chilometri di distanza. Comunque Grace si era fatta crescere lunghissime le unghie e con un gesto veloce e abile mise l'acido sotto un'unghia e lo fece cadere nella teiera quando volle vedere il tipo di ceramica con cui era stata realizzata. Purtroppo la visita terminò appena dopo il tè. Grace non ebbe mai il piacere di vedere Nixon abbaiare come un bulldog o credersi un fringuello appollaiandosi sulla finestra del suo ufficio. Erano altri tempi, passerottini e passerottine mie, i tempi in cui i Doors cantavano cose come Touch Me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Yeah. doesn't seem that long ago. Three of us walking down that road. Gray 55 Chevy parked in the front yard. Little Melody tagged along. Those were the best days, now they're gone. It's been 12 years since it went down. Lord, lost my best friend now. I can still see him fishing on that old dock. I know I can't bring back yesterday. But oh Lord, can you help me find my way down the Brickyard Road? Oh, walk on down. Down the Brickyard Road. He's with me now. Swore I saw a free bird fly, riding the winds of a southern sky. When I hear that whistle blow, it carries me back to Brickyard Road. Brother, do you realize what you've done? Touch the hearts of everyone. You might have died too young, but your songs live on. I know I can't bring back yesterday, but we'll be all together again someday down on Brickyard Road. Now. I swore I saw a free bird fly, riding the winds of a southern sky. When I hear that whistle blow, it carries me back to the Brickyard Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì, ma soprattutto il lunedì, ragazzi, che giornata, è roba dura, è roba per seri professionisti della settimana. Il lunedì non è un giorno come gli altri, il lunedì deve essere assolutamente affrontato a viso scoperto. Ragazzi, facciamo il surf, se questo vi può aiutare. Chuck Bird si trasforma in Surfing Bird e loro sono i Beach Boys. Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bush bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at the inside, outside USA. Ventura County line. Inside, outside USA. Santa Cruz and Tell. Inside, outside USA. Australia, Caribbean. Inside, outside USA. All over Manhattan. Inside, outside USA. And down Bohemian Way. Inside, outside. Everybody's got serving. Serving USA. Ooh. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. Ooh. We'll all be gone for the summer. Ooh. We're on safari to stay. Ooh. Tell the teacher we're serving. Serving USA. Ooh. Hangar B and one. Inside, outside USA. Pacific Palisade. Inside, outside USA. San Onofre and Sun. Serving USA. Everybody's got serving USA. Everybody's got serving. Serving USA. Everybody's got serving. Serving USA. Yeah, everybody's got serving. Serving USA. Surfing USA, ma anche surfing on Milano, surfing on Toscana, surfing on Liguria, insomma surfing ovunque, ovunque ci sia una radio sintonizzata su Rock FM. Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto anche questa mattina, anche se lunedì, qui all'Early Bird Special. Un saluto molto particolare dal vostro Chuck Bird, ma voi potete chiamarmi Chucky Boy. È come se fosse la prima volta ogni volta. Feels like the first time, come dicono i Foreigner. Takes me back. Una tazza di caffè nero bollente, ecco quello che ci vuole in una mattina come questa. Dio solo lo sa, vero Cherie? Meno male che ci sei tu, con il tuo caffè nero bollente che mi tira un po' su. È proprio quello che ci vuole. E voi cosa preferite al mattino? Scrivetemelo a birdradiorockfm.com. Oh, grazie Cherie, che Dio ti benedica. Il vecchio Chucky Boy ha una certa predilezione per le belle storielle di rock and roll dove tutto finisce con una grande sbronza o una sana nottata passata in compagnia di alcuni gruppi. Ma rock and roll significa anche tragedie e scomparse ampiamente premature. Appena dopo l'uscita di Highway to Hell successero un paio di cose molto poco rassicuranti agli AC/DC, anzi orribilmente profetiche. La prima riguardava la canzone Night Prowler, che venne adottata come colonna sonora dal serial killer satanista Richard Ramirez. Il criminale, quando venne arrestato, indossava proprio una t-shirt degli AC/DC. L'altra canzone era Touch Too Much, inclusa come colonna sonora in un video che veniva venduto nelle librerie dei cristiani fondamentalisti, un video intitolato Rock and Roll, The Search of God. Sulla copertina veniva riportata una frase del profeta Isaia che parlava di un uomo morto soffocato nel proprio vomito. E nel video proprio il cantante Bon Scott veniva additato come lampante esempio di perversione. 6 mesi dopo l'uscita di Highway to Hell, il responsabile della polizia scientifica londinese che rinvenne il corpo senza vita di Bon Scott scrisse nel rapporto: ha bevuto fino a morirne. Bon Scott, fortunatamente con noi rimarrà per sempre la sua incredibile voce e il suo enorme talento. Eccolo con gli AC/DC in It's a Long Way to the Top. If you wanna rock and roll. Riding on the highway,

perché a me piacciono e piaceranno anche agli ascoltatori, se volete, e ve le potrò anche dire in diretta. Scrivetemi a bird@radiorockfm.com. E a proposito di rock and rollers, questi sono veramente speciali. Le barbe più lunghe del Texas, ZZ Top, I Heard It on the Hicks. Grande musica all'Early Bird Special, il miglior rock and roll in circolazione. Non potete sbagliarvi, se siete qui, siete al posto giusto, al momento giusto. Io sono Chuck Bird, loro erano ZZ Top, che lasciano il posto a degli altri grandi. Che vi dicevo, solo il meglio per i passerottini e le passerottine qui all'Early Bird Special. Questi sono The Who, 515. Thank you. alone. Inside, outside. Nowhere is home. Inside, outside. Where have I been? Out of my brain on the 515. Out of my brain on the train. Out of my brain on the train, on the train. Wow, I'm out of my brain. Woo! Out of my brain on the train. Here it comes. Woo! Ancora una volta ci abbiamo dato dentro di brutto in questo lunedì. Ormai è l'estate andata. Eh sì, è un ricordo lontano, ma noi rimaniamo qui a fornirvi il calore necessario per affrontare come si deve una grande giornata. Come tutte le cose belle, anche questa mattina l'Early Bird Special conosce una fine. Io vi ringrazio per l'ascolto, ma non andatevene perché ci sono i rimanenti programmi qui da Radio Rock FM. Iniziamo con pane, burro e rock and roll con l'Ariele e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto, alla prossima. Aloha.